lavoro significa anche trovare un lavoro a quei 10 sfigati dei centri sociali che stanno là di dietro. Bravo, ma farlo però. Bravo. Buonasera a tutti. Buon anno. Tutte. Ma mi si sente? Siamo un po' bassi? Forse. Prova a abbassare. Prova adesso. Vai. Ci sono. Buonasera a tutti e tutte. Può sembrare incredibile. Siamo tornati l'anno nuovo e siamo qua. E siamo sfigati, naturalmente. I primi due sfigati dell'anno. Stiamo rollando. Se questo è quello che volete sapere, rollate anche voi, in quanto facciamo tutti parte di quella. Troveremo lavoro. Esatto, sì, esatto. No vabbè, a parte gli scherzi, buon anno a tutti e tutte, qui dalla regia del Wombat Bricovaldo e con Lapo. E ci scusiamo per l'assenza. Ma sì, dai, scusiamoci. No, dai, scusateci, su Radio Wombat. È stata un'assenza perché siamo stati assenti, ma dovevamo pensarci su. Ci sono stati grossi rivolgimenti interni, questo Natale ha comportato delle modifiche, un po' di autocritica che ha portato gli attori di Fuoco alle Polveri a convenire che insomma il carico di lavoro richiesto da una trasmissione settimanale È tanto e non va sottovalutato, e ogni argomento merita il giusto peso, e quindi abbiamo deciso di snellire. Di snellire. Sì, cioè, nuova vita nuova, basta, che palle sta serietà. Fatica. Esatto, quindi ci troverete con un formato più snello, un'oretta circa, quanto più quanto meno. A partire dalle 5, come avete visto, stavolta non siamo stati in ritardo, questa volta era... Esatto, non del tutto in ritardo, un po' era voluto. E quali altre novità ci sono? Cambiamo, no, il formato resta quello che avete conosciuto in questi 2 anni. Quant'è che ormai si va in onda? Siamo alla puntata numero 80. Boom! 80 come la paura meno 10. Cosa ti sei preparato? Un numero? No, in verità no. Mancando il Bontuco, sì. Ma manca per modo di dire. Poi lo sentiremo più tardi anche il Bontuco. Però no, non me lo sono preparato. Ma se volete, vi posso illustrare all'incirca che cosa andremo a trattare in questa puntata. Ah, io volevo invece cosa no, il numero 80. Giochiamocela con noi 80 giorni, facciamo il giro del mondo. Dai, sì. In 80 puntate. In 80 Wombat. Seguitevi, se vi ripercorrete le 80 puntate di Fuoco alle Polveri. No, ma non dove diteci un po' l'impressione, perché noi ogni tanto ci riascoltiamo. Non fatelo, ci sono tante altre trasmissioni Fuoco alle Polveri in Radio Wombat che sono anche serie. Assolutamente, una di questi propone un giro del mondo, e no, non proprio un giro del mondo, ma è Wombat dal mondo. Si parla dell'Accademia della Brusca. E praticamente potete mandare le foto dell'adesivo Wombat quando lo trovate a giro per il mondo. Uno è già stato trovato a Budapest, se non mi sbaglio, ma su, forza. Il giro del Wombat in 80 giorni. Il giro del Wombat in 80 giorni. No, dicevamo, no, le novità, no, il formato resta lo stesso, avremo ospiti, interviste, voci dal campo, e contatti diretti nella prima parte della puntata. Per poi ritrovare le consuete rubriche con più o meno serie. Sì, alcune confermate, alcune novità. E poi al solito un po' di musica, un po' di chiacchiere. Sì, un po' è la rassegna degli eventi in settimana. La rassegna degli eventi, probabilmente ci sarà anche una rassegna, qualcosa di riguardo al cinema a Firenze. Ma attenzione, grande novità invece quella che viene dopo Fuoco alle Polveri, dopo la rassegna eventi, perché ci sarà un microfono aperto disponibile per chiunque voglia. E circa mezz'ora, dalle 6 alle 6 e mezzo, 6 e un quarto, 6 e mezzo, tutti i lunedì. Per questo vi preghiamo, se volete, di contattarci alla mail posta wombat@insiberia.net. E questo è quanto. Un po' queste sono le novità dell'anno, si può dire, del 2019 con i fuochisti. Allora, che cosa abbiamo oggi da fare? Abbiamo in programma una rassegna delle situazioni, un aggiornamento al nuovo anno delle situazioni di spazi liberati o gestiti sotto sgombero. E poi avremo delle voci che ci racconteranno direttamente gli aggiornamenti. Verissimo, sì, dall'Emerson, da Mondeggi e dalla Polveriera. Cercheremo di fare una breve volo d'uccello su ciò che ci aspetta durante quest'anno di eventi grossi e significativi prodotti proprio da queste realtà in pericolo. Per poi tornare anche alla consueta nardellata, perché non lo possiamo scordare mica il nostro amico Dario. Ne combina una dopo l'altra quel briccone, veramente non si stanca mai, ma anche un eco che giunge dai Balcani e ci porta una voce dalla Ungheria, calda Ungheria. Bene, allora partirei con un pezzaccio, mentre noto che non siamo in diretta, proviamo un attimo a risistemare le connessioni. Comunque questa parte sarà registrata e la manderemo in podcast. Vai tranquilli. Dal nuovo album del Collo del Fomento, prodotto da DJ Crime, Adversus, la canzone omonima. Loro cancellano ma noi scriviamo da capo. Loro cancellano ma noi scriviamo da capo. Loro cancellano ma noi scriviamo da capo. Con tagli amici veri, una mano me basta e m'avanza. L'invidia qua se magna chi non ne ha mai abbastanza. Fortuna che me faccio i cazzi miei e non ve sento. Fortuna che con poco sto contento. Meglio così, sì, che già sta vita a volte amara. La gente qui ad essere stronza fa la gara. Come in questa città dove quello più tranquillo è un rosicone. Chi può appena sta alle tue spalle ti infama il nome. Ho dato sempre solo amore alla mia gente. Se te non l'hai capito, sì, davvero non fa niente. Sta bene anche il veleno di un cretino, ragazzino convinto che è successo il suo destino. Resto indifferente al vostro mondo ridicolo. Ho dato 7 anni e non mi avete smosso manco di un millimetro. E ancora non capite, ancora che ve sciaccanite. Siete scrausi dentro, per questo è chiaro che ancora subite. Ma da voi stessi vi vedo poco perspicaci, rapaci, ma non siete capaci. Io faccio il mio e non lo faccio né per loro né per loro. Lo faccio solamente perché, se no me moro, zio. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Chiaro, il conto da pagare questa volta è chiaro. Questa gente ha visto 1000 lire e crede di valer oro. Sul palco prima che fa buio come all'oratorio. Dietro i genitori hanno perso la 24 ore. Zombie questa scena perché solo chi è vissuto muore. Falsi amici stanno alle mie spalle, tagliagole. Vanità, somma avidità, senza il core. Nella discoteca Canneretto non c'è batte il sole. Chiamano sta merda omologata una rivoluzione. 5 chiodi dentro la mia schiena, solo al core. Come occulto sono 5 punti di pressione. 5 dita per la vita, mia consolazione. Di seppellisco lascia perché so che pure lei lo vuole. Più pretese delle prime donne, con più trucco delle prime donne. Adorati come madonne, noi ancora in piedi come le colonne di Roma. Voi solamente un bug nella nostra storia. Cielo blu come il lampeggiante. Alzo il volume perché il rap ha un suono più pesante, più importante. Esce dalle casse, infetta la tua mente. Per dirtelo che quello che hai lasciato è niente. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Investire nel per fama del denaro. Chiaro, il conto da pagare questa volta è chiaro. Investire nel per fama. Sì, tornate nel vostro centro sociale a farvi. Ci torniamo, ma non c'è bisogno che ce lo dica, fra l'altro. E sentite questi rumori di connessione, stiamo mettendoci in contatto Con chi? Con qualcuno dall'Emerson, non so chi ci risponde, dove lo inserisco questo? Abbiamo una compagna dell'Emerson che sarà in diretta a breve. Sì, allora, la storia, cominciamo un attimo per capire la situazione un po' da come è iniziata. Nel senso, l'Emerson ha occupato un'area privata, questa area era di proprietà, è tuttora di proprietà della cooperativa Unica, una cooperativa che costruiva e rivendeva ai soci praticamente. Questa cooperativa è fallita qualche anno fa e adesso naturalmente dopo il fallimento è stato c'è il curatore fallimentare e il curatore fallimentare ha cominciato a mettere all'asta tutti i beni della cooperativa. Ancora noi non siamo rientrati nelle aste, ma naturalmente prima o poi ci saremo. E quindi questa è la parte preoccupante, anche perché queste aste in città stanno cominciando a essere un filo rosso tra tutte le occupazioni, perché tutte, insomma, in diverse, alla fine abbiamo lo stesso problema, partire da Mondeggi a Viale Corti a noi. Mondeggi, fra l'altro, lo sentiremo più tardi, quindi diciamo, però se nel caso di Mondeggi l'asta è stata indetta, c'è già una data ben precisa di scadenza, sì. nel caso per vostro loro, appunto. Sì, per loro sì, noi ancora no, nel senso anche perché l'Unica, essendo una cooperativa di immobili, praticamente ha diverse proprietà, capito? Quindi il curatore fallimentare un po' di lavoro ce l'ha da fare per mettere all'asta tutti questi immobili. Tra l'altro, per fare un esempio, il mese passato hanno messo all'asta, sempre di proprietà della cooperativa Unica, degli appartamenti all'isolotto che erano occupati. Quindi anche questa, cioè queste aste praticamente non si preoccupano minimamente di quello che c'è all'interno degli immobili che mettono all'asta, anzi nel caso per esempio di Mondeggi mentono spudoratamente dicendo che non c'è niente, che sono libere. Vero, verissimo. Quindi, anche i giornali hanno fatto questa cosa, abbiamo potuto leggere dei trafiletti degli articoli senza alcuna menzione all'importanza né alla comunità né all'importanza che essa ha nel territorio. E quindi come vi state muovendo all'Emerson? Allora, noi stiamo monitorando costantemente le attività del curatore fallimentare per capire quando usciremo da lì e naturalmente nel frattempo ci siamo attivati per cominciare a combattere ed è una cosa che dovremmo fare tutti in città, perché comunque questo problema delle aste, come ho detto prima, alla fine ce l'abbiamo in diversi, cioè questo è un metodo che non va bene, perché alla fine loro non devono rendere conto a nessuno, perché queste aste sono subdole, nel senso la prima è quasi parte da una base, scade uno, ma poi alla fine sono tutte a ribasso, vedo. Quindi alla fine queste aste è un modo che probabilmente i soliti avranno per comprare immobili anche magari in zone pregiate, come può essere Mondeggi, ma come può essere anche l'Emerson, che è in una zona pregiata perché è vicino a delle ville che sono patrimonio UNESCO, capito? Quindi queste aste a ribasso alla fine favoriranno sempre le solite persone che ormai possiedono mezza Firenze e che vogliono impadronirsi anche dell'altra metà al più basso prezzo possibile. E queste aste lo permettono, perché queste aste non sono pubbliche, capito? Sono a un tu per tu in un ufficetto chiuso ad un notaio. Quindi alla fine te non hai il controllo di quello che succede, capito? Ed è così che alla fine patrimoni interi, pezzi interi di città se ne vanno sempre a chi ha la possibilità di comprare. Di investire, sì sì, grandi grandi quantità per le persone normali, poi per loro magari non lo sono neanche. E abbiamo letto dei comunicati diramati dall'Emerson, uno dei quali parla in particolare di quello che state attuando, quello che state mettendo in atto per contrastare questo tentativo di vendita, e naturalmente vanno nella direzione di rendere il luogo il più frequentato e il più importante possibile per il territorio, se non mi sbaglio. Cioè renderlo, lo è già, dimostrarlo maggiormente, immagino, quando ho visto l'iniziativa del, mi riferisco in particolare all'iniziativa del museo autogestito. Sì, sabato c'è stata l'apertura del museo autogestito, il NEMA l'abbiamo chiamato, è un progetto che prevede di esaltare anche le forme di arte che non sono considerate ancora tali, come i graffiti eccetera, e che invece dovrebbero avere pieno riconoscimento, perché quella è arte esattamente come un quadro. E quindi stiamo mappando tutto il centro sociale di modo da mantenere anche una memoria, perché sai, i muri si cancellano e si ricoprono, fortunatamente, perché ci sono persone che lo fanno volentieri. Quindi stiamo mappando tutto il centro sociale per tenere anche memoria di tutti i disegni, schizzi e scritti che ci sono. E poi abbiamo inaugurato sabato invece uno spazio che invece vuole ospitare mostre, anzi lanciamo anche un appello: se c'è qualcheduno che ha voglia e gli piace l'idea, è uno spazio a disposizione. Può ospitare quadri, schizzi, disegni, statue, quello che uno preferisce, ed è un modo per portare anche l'arte fuori dai musei, no? E la mostra che è aperta, tra l'altro, con cui abbiamo aperto il NEMA, è una mostra che già dice anche, nonostante che l'idea sia partita tempo fa, rimane profondamente ancorata al presente, perché si intitola Bau Bau, la paura è una marea, torna indietro a chi la crea. Questo è il titolo dei disegni che la compongono, e l'idea di quelli che hanno disegnato, fra cui ci sono anche disegnatori famosi, perché naturalmente anche il clima che c'è adesso in Italia, no? Quello che dobbiamo cercare di fare è di rimandare indietro la paura che ci stanno buttando addosso come una marea, giusto appunto. Benissimo, allora ricordiamo il sito nema.noblogs.org, che sta venendo aggiornato. Sì. Vedo che c'è già appunto l'inaugurazione del Babau, già stata caricata. Mi ricordo anche c'era una pubblicazione, Paura del buio, un libretto che raccoglieva questi disegni di grandi, ci sono appunto molti grandi disegnatori e anche i racconti di vari scrittori e scrittrici. E niente, appunto, rilanciamo l'appello oltre ovviamente a visitare il museo, sia quello virtuale, quello digitale, sia quello concreto all'Emerson. Rilanciamo l'appello ad arricchire con la propria arte questo museo, e niente, verremo a vederlo al più presto anche noi. A rivederlo, io un'occhiata gliel'ho già data. Anch'io, ma non volevo dirlo, volevo fare. Dai, va bene, allora prestissimo. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Sì, sì, sì, una bella. Credo si riferisse a Zero Calcare, immagino, con scrittore, con disegnatore ormai famosissimo, Io ci aggiungo Alberto Prunetti, fra gli scrittori famosissimi che hanno partecipato a quella raccolta. Sì, anche se risale a 10 anni fa, quando forse Prunetti ancora non era conosciuto come è oggi, però insomma dimostra la lungimiranza appunto nel riconoscere il valore di certi personaggi, di certi autori, di certe pratiche. Che si riflette anche in questa nuova iniziativa di museo. Bellissima, sì, bellissima, e purtroppo in risposta a questi tempi bui abbiamo citato altre realtà, Mondeggi in particolare, perché hanno avuto un regalino di fine anno. Perché se non mi sbaglio era proprio il 30 o il 31 quando gli è arrivata il 31. Quando è uscita il bando pubblico della città metropolitana per la vendita all'asta di Mondeggi. Fra l'altro poi magari ce lo facciamo spiegare meglio dal compagno mondeggino. Sì, mando una canzone e facciamo la seconda chiamata della... giusto? Vai, sì. Allora, sono gli MC5 con Ramblin' Rose. Love is like a rambling road. The more I feel it, the more it grows. Forse ha mandato un file, avete sentito anche voi, forse soltanto in mono, capita. E erano gli MC5, ricordo la puntata monografica sugli MC5 di Tonight Alive, del nostro Dalai Dama, mi pare il numero 36, se andate a spulciarvela, merita. E niente, riprendiamo... Eccoti. Prendiamo il tour degli spazi? Eh sì, perché avevamo accennato prima che fra le altre novità che ci ha portato questo 2019 c'è la nuova asta per Mondeggi. Eh sì, c'è la nuova asta per Mondeggi e noi ne parliamo con un compagno di Mondeggi. Se ci sente, pronto? Aspetta, non mi ha attaccato forse okay. Il cavetto. Pronto? Mi sentite? Ci siamo? Ehi, sì. Eccoci. Allora, stavamo parlando della questione Mondeggina, che vi hanno fatto un bel regalo di fine anno. Cosa è successo? Il 30 dicembre alle 7:30 la sera, un po' a sorpresa, è uscito, diciamo, Mondeggi è tornato formalmente sul mercato. Per chi non sa cos'è Mondeggi, Mondeggi è una fattoria di 180 ettari, un villaggio rinascimentale, numerosi casali, e nel comune Bagnarrico, che è stata di proprietà della città metropolitana di Firenze e da ormai quasi 5 anni è un presidio che vuole scongiurarne la vendita. Infatti Mondeggi è ormai in vendita da quando è stata dismessa l'azienda agricola, quindi praticamente da quasi 10 anni, e poi insomma sta portando avanti un progetto di riqualificazione dell'area con numerose iniziative a livello sia agricolo sia sociale, tutto gestito, auto-organizzato. E quindi che succede? Diciamo il 30 dicembre in poi, che questo progetto è di nuovo in pericolo, perché è uscito il bando d'asta, 9,5 milioni di euro. Che è una grandi cifra, saldi, insomma, fra l'altro. Come? Grandi saldi, hanno abbassato il prezzo notevolmente. Grandi saldi, se si pensa che diciamo, questa cifra era la base, diciamo, dell'offerta minima per il bando precedente, era del 2014, però da cui era esclusa la villa rinascimentale. Questo, insomma, è calato molto il prezzo, non considerando ovviamente minimamente poi addirittura l'intervento invece che Mondeggi Bene Comune, appunto il comitato, si è portato avanti in questi anni, e insomma non solo diciamo evitando e andando ulteriormente, ma proprio riqualificandolo, insomma. Ecco, ma cioè, si può dire, eravamo rimasti alla pubblicazione di bandi di interesse, erano un anno fa, manifestazioni di interesse alle quali in diverse entità avevano risposto, fra voi fra l'altro, ma anche Ruffino e grandi marchi. C'erano un paio di immobiliari e la Chianti Ruffino, che è di proprietà di una nazionale americana degli alcolici, e noi insomma abbiamo denunciato diciamo questo, l'interesse, diciamo, rapace da parte di questi soggetti, però sembrava non ci fosse stato seguito a queste manifestazioni di interesse, anche perché le cifre proposte erano, dalle volte che c'erano giunte, erano veramente veramente basse. Però poi appunto poi è uscito il nuovo bando d'asta, gli scenari che si profilano probabilmente sono appunto o che è stato raggiunto un accordo di massima, oppure che insomma hanno dovuto rispondere in città metropolitana a deficienze di bilancio, insomma per questioni erariali, diciamo, poi sei quasi obbligato a mettere sul mercato dei beni che si ritrova in mano, purtroppo al giorno d'oggi funzionano così. Però insomma la volontà politica, se ci fosse, di fare altro è profonda. Comunque il problema è che questa manca, cioè, la città metropolitana ha fatto muro da 50 parti e non riesce nemmeno ad avere degli incontri, insomma. Ecco, loro vanno avanti per esatto. La loro vogliono vendere, noi esistiamo, ci opponiamo alla vendita, e per ora questo è. Leggermente diverso invece è il rapporto con invece le istituzioni più vicine, si parla del comune di Bagnarripoli e di tutto anche il territorio che vi circonda. Come la squadra di pazienza, non ho capito. Diverso è invece il rapporto vostro con le istituzioni più vicine a voi, e quindi il comune di Bagnarripoli. Sì, sì, diciamo col comune ci sono state diverse interlocuzioni in questi anni, e il problema è che non essendo poi la materia di stretta competenza loro, e se ne lavano abbastanza le mani. Ecco, poi il sindaco non ha mancato, diciamo, cioè quando parla con noi ovviamente si mostra una faccia, poi quando se non ci sei non si perica ad attaccarsi, insomma. Era anche abbastanza così, francamente, triste, perché poi sono accuse che non stanno in piedi, no? Però ecco, sì, diciamo il comune quantomeno un'interlocuzione c'è stata, e la città metropolitana invece, proprio per come è strutturata, che è una sorta di ente degli enti, non è che fa capo al comune, è veramente irraggiungibile, cioè eteria, però ecco. Insomma, noi ci siamo stati, ecco, sì, direi. Ma fra l'altro la situazione che, insomma, nella quale siete, non siete soli, ecco, per così dire. Il territorio fiorentino è tutto in lotta e praticamente tutte le realtà stanno vivendo una delle storie, sì, simili, certo, dall'Emerson, Polveriera, insomma, via discorrendo. No, la situazione non è felice, non è rosea sia a livello nazionale, e poi insomma anche a Firenze si comincia a respirare un'aria abbastanza pesante, semmai vista, ecco. Sì. Avete davanti a voi due mesi e mezzo praticamente prima del primo marzo, il giorno dell'asta, come pensate di affrontarli? Sì. E soprattutto se la vostra azione sarà vostra oppure vi saranno anche altre realtà che vicine o nella stessa situazione? Non ho capito l'ultima parte, scusami, la nostra sarà solo nostra? Dicevo, agirete in modo corale con le altre realtà fiorentine oppure? Allora, sì, noi sicuramente... diciamo in quelle sono iniziative che stiamo cercando di mettere in campo, e l'apertura e il dialogo e il coinvolgimento delle altre realtà sarà massimo. Purtroppo devo dire, secondo me è stata una cosa talmente improvvisa e talmente, e poi è arrivata sotto in piene feste natalizie, per cui ha colto un po' tutto alla sprovvista. Il tempo è breve probabilmente per costruire un'iniziativa più corale, che comunque probabilmente andrà fatta più avanti, secondo me. Cioè, a prescindere da Mondeggi, ecco, da quello che succederà più avanti, io sono diretto, io e noi diciamo siamo di questa opinione. Poi noi il primo marzo stiamo organizzando un presidio sotto la città metropolitana la mattina, che forse si trasformerà in un corteo, adesso insomma vediamo un po' che numeri ci saranno. Perché insomma bisogna esserci con la questione delle buste, è pubblica, quindi in teoria si potremmo anche entrare, vediamo. E la chiamata è allargata per tutti quelli ovviamente che vogliono sostenere questo percorso. E poi appunto è il caso di insomma di guardarsi in faccia e provare appunto a tessere delle reti collettive, già però per fortuna ci sono, ecco, si tratta di farlo. Bene, benissimo, allora noi sicuramente ci saremo e rilanciamo l'appuntamento appunto al primo marzo, ma ci sentiremo nel frattempo insomma per aggiornamenti e per l'evoluzione anche di quello che si farà. Bene, grazie. Allora grazie. Grazie, ciao. Grazie a voi, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bella. Capito? Siamo tutti così su. Oh. Cavetto. Cavetto contro il microfono. Cavetto, canzoncina e ripiglino? Dai, sì. Ma c'è... Ah, aspetta, ci hanno detto... Il vostro centro sociale a farvi, Dai. Wait a minute. You know my baby, she won't let me in. I've got a few pennies, I'm gonna buy myself a bottle of gin, and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say, so hard all day long. Everything I try to do seems to always turn out wrong. That's why I want to stop by on my way home and say, let's go get started. Now let me tell you one more thing. no harm to have a little taste, but don't lose your cool and start messing up the man's place. Ain't no harm to take a little nip, but don't you fall down and bust your lip. No, no. Everybody ought to come on and go with me. Questo era Ray Charles, avrete riconosciuto, che seguiva il consiglio, dava il consiglio a... a come? Come? A... Dai, il vostro centro sociale a farvi, che state vedendo le detto. Ah, dai. Che si fa? Dai. Senti questo? Eh sì, anche... Ci siamo. No, volevo dire, sì, a parte le cavolate, anche se sono serissime, perché qua ne andiamo davvero nei centri sociali a farci. E volevo dire che appunto in questi centri sociali, che però se ce li mettono sotto sgombero, se ce li vogliono chiudere, poi diventa difficile. E noi continueremo nelle prossime puntate a parlarvi, a raccontarvi usando le voci dei diretti, non tutti siamo direttamente coinvolti in questa faccenda, però insomma con le voci dei protagonisti, attraverso le voci dei protagonisti racconteremo come si stanno difendendo e come rilanciano le realtà occupate, liberate, autogestite qui in città. E, vero, ci eravamo lasciati l'ultima puntata con la polveriera, con l'annuncio dello sgombero, annuncio che non è rientrato, ma si sono un po' dilatati i tempi, e questo permette ai compagni e alle compagne permetterà di mettere in atto una campagna che andrà avanti probabilmente per la primavera. Sì, e che sicuramente convergerà o attraverserà e sarà attraversata da questi altri percorsi come questo di Mondeggi che abbiamo appena sentito. Ovviamente tutta la città si mobilita, tutti in difesa delle autogestioni, se toccano uno toccano tutti, e questo è un mantra che ci ripetiamo costantemente. E, no, niente, sì, la polveriera ancora non ci sono, aggiornamenti soltanto sulla maggior un po' più di tempo per un po' più di margini per di manovra, ma importante sarà partecipare. L'appuntamento è giovedì, questo non so che numero sia. 17. Giovedì 17 ci sarà la terza assemblea della polveriera in lotta, nella quale si sta delineando un percorso, stanno raccogliendo idee e appunto per mobilitarsi, per far sentire forte la voce in città e non solo, e difendere tutti gli spazi occupati e autogestiti. Eh sì, dove farci, fra l'altro? Sì, chiaramente. Perché sennò sono essenziali, veramente. A parte gli scherzi, no, li riteniamo essenziali per il tessuto, e per questo non li molleremo mai e poi mai. Ma, ebbene, ma oltre alle gesta del nostro prode ministro dell'interno, abbiamo un altro supereroe noi. Ascoltato? Abbiamo... No, ho sbagliato, aspetta. Abbiamo ascoltato? Contro Dario è una Dario stupenda. Ebbene sì, contro Dario una Dario stupenda, era tanto che non parlavamo di lui, ma cioè era tanto che non andavamo in onda e quindi non parlavamo di lui, ma oggi ci siamo e torniamo con e non possiamo esimerci. Non possiamo esimerci dal narrare le gesta del Prode Nardella, a iniziare da iniziamo o finiamo da una delle grandi battaglie del nostro primo cittadino. Che non si è capito come mai, ma ce l'ha proprio così tanto con i graffiti, con le scritte e con l'arte di strada. È una roba incredibile. Eppure lui si fa promotore dell'arte, ma quando non gli piace, prende e la cancella. L'altro giorno, era circa 3 giorni fa, se ne esce fuori con un post che ve lo leggeremo. Fa così. È quello? È quello. Caro ragazzo o ragazza, che mosso da un irrefrenabile impeto amoroso hai voluto lasciare un segno indelebile di questa tua emozione. Rifletti, per favore. Pensa che la nuova piazza dei Ciompi è anche tua, come di tutti i fiorentini. Pensa che per ripavimentarla in pietra ci sono voluti soldi, anche tuoi, probabilmente, come di tutti i cittadini, e tempo e sacrifici. Pensa che a casa tua, sul pavimento del salotto o sulla parete della cucina, forse non l'avresti fatto. E infine pensa che ora toccherà a qualcun altro spendere tempo e risorse per cancellarlo. Ci sono tanti modi per manifestare l'amore verso qualcuno e qualcosa con un bel cuore. Certo non questo. Chi ritiene di saper amare deve anche dimostrare di saper rispettare. Hashtag? Enjoy Respect Firenze! Enjoy Respect Firenze! Ebbene sì, allora qualcuno ha disegnato un cuore sulla nuova scintillante, lucida Piazza Tasso, veramente... Nardella? Cane, tu che hai fatto quella cacca Nardella. Sul marciapiede, pensa che quel marciapiede non è soltanto tuo. E ci sono volute soldi che forse il tuo padrone ha speso per pavimentarlo. Ma lui è furbo, ma che pensi? Ma che pensiamo che non si attrezza? Si attrezza sì. Nardella? Si attrezza all'ultimo grido, fra l'altro, Nardella. Perché ne è uscito fuori sui giornali. Nardella. Non so se hai avuto il piacere di vederlo, caro Lapo. Incredibile. Ho visto anche una riduzione videografica. Nardella. Scusate, non so come farlo smettere. Aiuto. No, ma lascialo in sottofondo. Questo qui è una cosa. È stato trovato su YouTube in risposta alla guerra di Nardella e graffiti. Praticamente c'è una persona che gira per la città. Uno stimabile, rispettabile cittadino che giustamente va a segnalare al nostro primo cittadino tutti i luoghi in cui il suo laser, questo stiamo parlando, il nuovo laser anti-graffiti. Questo stiamo parlando, sì, è un laser, è una macchinetta del costo di 60.000 euro che è stata donata, niente poco di meno, che agli angeli del bello, perché l'olio di gomiti stava finendo e quindi dice, vabbè ragazzi, prima di fargli venire delle fecondiliti a questi qua, sai che si fa? Prendiamo questa roba qua che è stata regalata da un'azienda. È stata regalata, sì, dalla... Molla Trovo, si chiama ELN, è un'azienda che sviluppa tecnologie non solo in ambito graffitaro, antigraffitaro, ma anche altre cose. Comunque fatto sta che è stata regalata alla Fondazione degli Angeli del Bello e Nardella subito gasatissimo è andato a provare a cancellare qualcosa dei muri, e di fatto sembra che funzioni. Nardella. E questo gli permetterà, insomma, di fare passi avanti nella campagna elettorale che ha lanciato poderosamente già negli ultimi giorni. No, ma sai, che cosa ti devo raccontare, caro Lapo? Cioè, una cosa incredibile. Perché non so se ti ricordi, ma... Nardella. Non so se ti ricordi che qualche tempo fa se ne è uscito con Firenze 2030, Nardella. La città dei giovani e via discorrendo. Nardella. ecco, ci siamo andati io e Grippo, anzi andati per modo di dire, perché di fatto siamo riusciti addirittura ad entrare, ci eravamo iscritti, bla bla bla, non ci avevano dato spiegazioni di che cos'era, quindi noi siamo andati lì un po' ignari ma anche un po' consapevoli di quello che ci aspettava. Fatto sta che siamo durati lì dentro una cosa come 5 minuti forse. No, e poi... Cacciati o siete scappati voi? No, non ci hanno cacciati, ci hanno guardato malissimo, ad essere sincero. Di fatto era... Di fatto era un'iniziativa del Comune di Firenze per lanciare la città Nardella. Ai giovani, ma si può dire che però era un'iniziativa del PD. Bene, più di metà delle persone erano giovani del PD. Nardella. E sai quelle cose che vedi proprio a vista d'occhio, cioè ti balza subito. Ecco. E quindi niente, è una fantastica Nardella. Iniziativa per invertire le fila del PD che piano piano si sgretola ovunque, forse Nardella. A Firenze un po' meno, perché il modello Firenze, di Renzi, insomma, dai, Nardella. È figo, no? Yeah. No, No, Senti, però allora provo a darti un'altra buona notizia, sempre anche questa estrapolata. Aspetta, un altro audio dell'intervento di Nardella. Che sta cancellando. Guarda, tutti i graffiti. Spariscono i graffiti. Una battaglia, perché... Nardi versus graffiti. Nardi versus Taz. Dai, giù, ok. Senti lì, spade laser, e via discorrendo. Comunque, senti, guarda, ti rincuoro con una notizia, sempre anche questa Nardella. Tirata fuori dal pagina Facebook di Nardella. Dice questo a gran voce, installato in Villa Rosselli, le prime due telecamere di sorveglianza dell'anno, quando è uscito questo post. Era il 3 di gennaio, quindi proprio fresco. Festeggiamo. In città sono già presenti oltre 500 occhi elettronici della sicurezza. Nostro obiettivo è quello di arrivare a 750 entro metà del 2019, maggiore prevenzione e più controllo. Parole tipiche della propaganda della sinistra, queste qua le sentiamo da oramai decenni, già i partiti della vecchia sinistra portavano avanti queste battaglie riempendo la città di sbirri e di controllo, perché insomma la sicurezza si fa così. Poi figurati, arrivò Salvini, ma vabbè, ormai era già... Festa grande. Sì, dai, su. Tutto spianato. Esatto. Che c'è dopo Minniti che vuoi doveva aggiungere. Su, dai. Senti, no, vabbè, quindi telecamere, da qui alla fine dell'anno 250 telecamere in più nell'area fiorentina. Stateci. Bello, eh? Sicurezza per tutti. Più sicurezza per tutti. Abbiamo anche delle mappature delle telecamere fiorentine. Sì, per essere ancora più sicuri evitandole. Esatto, quindi piano piano probabilmente ve le diffonderemo. Diciamo che è un buon lavoro in questo senso, stanno facendo di ricognizione, di studio, il gruppo che si sta riunendo ultimamente del... Sud Europa contro la turistificazione. La rete SET, la neonata rete SET, sì. Che avremo il piacere di incontrare. Ci sarà un meeting nazionale proprio a Firenze a inizio marzo. Esatto, 1-2 è previsto per l'1-2-3 marzo, sono praticamente ufficiose le date, non ancora ufficiali, ma noi ve le diamo per certe perché date dette a noi. 1-2-3 con alcune date di avvicinamento, la prima è prevista per il 24, che è giovedì, non di questa settimana ma della prossima, presso la Polveriera. Vi sarà una presentazione, diciamo così, della rete e di ciò che sta facendo a Firenze e alle realtà che sono interessate, alle realtà e alle persone che sono interessate. Sta facendo veramente un buon lavoro, io lo sto seguendo un po' dall'interno e vi posso dire che sì. Tanti temi trattati in modo veramente serio, e questo poi sarà a beneficio di tutta la cittadinanza. E questo sarà solo uno degli appuntamenti importanti che ci aspettano in questo 2019, e mentre adesso il nostro Bricco prepara, allestisce la rubrica conclusiva della nostra trasmissione, vi faccio una breve panoramica di quello che dovrete aspettarvi. Appunto, parte questo marzo, si è detto a inizio marzo, il meeting nazionale della rete SET, ma appunto ogni anno a Firenze gli spazi autogestiti offrono una grandissima gamma di festival che raccolgono in più giorni attività, scambi di arti, culture. E così io ora giusto en passant, poi nel corso dell'anno ovviamente ve ne riparleremo, ma ad aprile avremo lo Sgana e Traballa, che si svolge ormai da una ventina di anni al CPA Firenze Sud. È una festa di musica popolare che mette a tavola ogni sera centinaia di persone, A maggio invece si svolge ormai da 3 anni il Festival della Letteratura Sociale presso la Folveriera, e sono appunto vari giorni di presentazioni, incontri, tavole rotonde, eccetera. Subito dopo, in genere, ma quest'anno forse sarà spostato, il Festival di Tatuaggi e Arti Ribelli, Inchiostri Ribelli appunto, che si svolge itinerante fra il centro sociale autogestito Next Emerson, Viale Corsica, la Folveriera, Via del Leone. E quest'anno ci sarà anche, si svolgerà a Firenze, quindi lo aggiungiamo alla lista delle cose che seguiremo come Radio Wombat e a cui parteciperemo come singoli, ovvero l'ACC Meeting. Quest'anno si svolge a Firenze, l'anno scorso è stata a Genova mi pare, l'anno prima a Venaus, insomma a questo itinerante, e quest'estate si sarà qua vicino, e vi promettiamo che anche se non siete qui vicino o non potete partecipare tutti i giorni, noi vi trasmetteremo da là. Eh sì, da là, da qua, da un sacco di posti. Cercheremo di essere più o meno ovunque, con capacità anche di sdoppiamenti. E cercheremo di sapere... Necessità di sdoppiamenti. Necessità di sdoppiamenti. Ma ci saremo, ci potrete sentire su 1359 AM naturalmente, e dove si prende, perché la città ha tante barriere per noi. Ma potete ascoltarci in streaming, potete iscriverci, anzi iscriveteci, dai, che attendiamo le vostre... Non fateci fare i giochini nel quale vi dobbiamo coinvolgere, autoconvolgetevi, dai. Giusto? Lapo? Yep. Se no noi poi ci siamo... Ci sono noi, cioè, solo fra di noi. Se ci tocca farci le zone poi. Come dice il nostro ministro. Come ci consiglia il nostro amico. Bene, ti ho dato abbastanza tempo per approntare il tutto. Sì. Devo usarvi qualcosa, vuoi qualche cavetto? Vuoi un cavetto, sì. Quello che ti hai attaccato al computer lo vorrei io. Allora, clic. Probabilmente avete già capito di che cosa si sta parlando, ma se non l'avete capito, allora lo capirete immediatamente appena riuscirò a far partire la sigla. Yuri! Oh! Cazzo! Dai che comincia! Buonasera, bentornati! Sono Tuco, no, non è vero, non sono Tuco, ma faccio finta di esserlo, perché Tuco non è presente, ci ha mandato la rubrica. Tuco non è presente, ci ha mandato la rubrica, ma era troppo lunga e quindi noi l'abbiamo tagliata malevolmente a un pezzo, sì, proprio a merda. E quindi mi sarà solo un terzo, poi il restante ve lo manderemo nelle puntate successive. Vai Tuco! Con questo passiamo invece all'ultimo paese. Con questa cosa? Oggi che è l'Ungheria, non possiamo parlare delle proteste contro Orban. Domenica 16 dicembre infatti migliaia di persone hanno manifestato a Budapest contro l'approvazione di 2 leggi pesissime emanate da Orban. La protesta era stata chiamata Buon Natale signor Primo Ministro, è stata la quarta tra fine novembre e inizio dicembre, è stata organizzata dai partiti di opposizione che hanno partecipato tutti insieme, dai Verdi ahimè fino all'estrema destra, questa è nota negativa, dei gruppi di studenti, semplici cittadini, insomma, quindi variegata. L'ondata di proteste si è scatenata dopo l'approvazione della scorsa settimana di un emendamento un emendamento al diritto del lavoro definito legge schiavitù, perché aumenta il numero di ore di straordinario da poter effettuare ogni anno, da 250 aumentano a 400 per ciascun dipendente. Allo stesso tempo i datori di lavoro hanno a disposizione 3 anni per pagare questi straordinari. Quindi vieni pagato in 3 anni. L'emendamento è stato approvato nonostante le proteste di massa da parte dei sindacati, le organizzazioni opposizioni e organizzazioni civili. Il segno di protesta, l'opposizione aveva occupato il podio del presidente parlamentare durante la votazione. Quando Orban e il suo governo hanno riformato la legge sul lavoro e sul fisco anni fa, quindi la legge precedente che si occupava appunto delle aziende, non ci furono proteste. Anche se il diritto allo sciopero era stato fortemente limitato e le aziende ad oggi sono quelle che pagano meno tasse di tutte nell'Unione Europea. I sindacati ungheresi sono deboli però e politicamente frammentati. La maggior parte dei partiti di opposizione si preoccupa marginalmente delle questioni sociopolitiche, mentre le organizzazioni non governative si concentrano principalmente sui diritti civili, sullo stato di diritto. Però ora una parte dei cittadini ungheresi sta indirizzando la sua rabbia verso appunto questa legge schiavitù. L'emendamento, da molti considerato umiliante, sta ponendo seri problemi sociali e sono tutti a carico chiaramente dei dipendenti. C'è un'altra enorme carenza, cioè tra l'altro appunto questo va perché? Perché Orban ha emanato questa legge? Perché l'Ungheria ha un altissimo tasso di emigrazione. Negli ultimi 8 anni sono partite circa 600.000 persone e la maggior parte sono istruite. Lasciano il paese per il clima politico, per la scarsa organizzazione, il sottofinanziamento del sistema di istruzione e dell'assistenza sanitaria e la forte dipendenza delle aziende private dal sostegno del governo. Quindi c'è una grande emigrazione. Come sappiamo, Orban è il grande fautore dei muri e dello stop all'immigrazione, grande alleato del nostro ministro Salvini, e quindi cerca di risolvere questa carenza di manodopera con l'aumento degli straordinari, appunto. Al di là della legge schiavitù, ciò che preoccupa però i cittadini è la deriva proprio autoritaria del governo Orban con la riforma del sistema giudiziario. Infatti l'Ufficio Nazionale della Magistratura è stato messo sotto l'influenza politica diretta del governo e praticamente hanno creato un sistema parallelo di tribunali amministrativi che sono a dirette dipendenze del ministro della giustizia, quindi di Orban stesso, che non è il ministro della giustizia ma è il capo indiscusso e manovra i suoi ministri come Burattini, e questi tribunali paralleli si occuperanno anche di questioni politiche come la legge elettorale, la corruzione, i diritti di manifestare. Nel frattempo c'è un'altra cosa pesissima: le centinaia di agenzie stampa private hanno donato la loro proprietà a un holding centrale che è gestita da persone vicine a Orban e contribuiscono a rafforzare la presa del primo ministro sui media ungheresi. Se verrà approvata dalle autorità la regolamentazione di questa cessione alla holding la commissione che deve valutarlo è un funzionario nominato da Orban, l'accordo colloca la maggior parte delle principali testate ungheresi sotto il controllo di una singola entità statale in una mossa che non ha precedenti. Questo ce lo racconta Freedom House, un'organizzazione che monitora la libertà di stampa. Si sta registrando. Si parla di più di 500 agenzie di stampa ungheresi che hanno un atteggiamento filo governativo. Da quando Orban è al potere, le emittenti pubbliche sono state trasformate in portavoce del governo e raramente danno spazio alle opposizioni. Negli ultimi tempi altri provvedimenti sono stati fortemente contestati. Per esempio, a settembre è passato un provvedimento che rende praticamente illegale dormire per strada. E poi anche altre azioni, per esempio del governo, tra le altre, dare asilo all'ex primo ministro macedone Nikola Gruevski, che è condannato per corruzione in Macedonia e che ora viene visto spesso mangiare tranquillamente in ristoranti di lusso. E infatti ci sono dei recenti sondaggi che dicono che gli ungheresi la preoccupazione maggiore degli ungheresi è la corruzione del proprio paese e non il rischio di immigrazione che il governo, che Orban continua a evocare. Non si sa quanto tempo andranno avanti le proteste, anche per proteste che per il governo sono sostenute chiaramente da Soros, che vi ricordo che è di origine ungherese. E cito testualmente: sono sostenute dal miliardario statunitense George Soros e dalle forze che si nascondono dietro di lui, così come da chi vuole l'invasione dell'Ungheria da parte dei migranti e da provocatori e criminali stranieri che hanno l'obiettivo di danneggiare l'immagine dell'Ungheria all'estero. E George Gulyas, il capo gabinetto invece di Orban, quindi l'altra voce che si è schierata con Orban, addirittura facendo riferimento alle prime mobilitazioni cominciate il 12 dicembre, ha parlato di fedeli di Soros che odiano apertamente i cristiani. Quindi questo odiare i cristiani, odiare gli italiani, odiare persone del proprio paese è il leitmotiv di questo inizio 2019. Buon anno a tutti. Inoltre, decine di persone, alcune delle quali estranee alle proteste, sono state arrestate in queste manifestazioni, cioè persone passavano lì e sono state rilasciate dopo 12 ore o più. Ok, siamo giunti verso la fine della puntata di oggi, però c'è una novità che fra poco vado a raccontarvi. Allora, la novità di cui vi stavo parlando e per cui ringrazio pubblicamente Giuliana, Elias e Denea per questo regalo di questo libro che si chiama Guida alla musica dei Balcani e del Caucaso di Gianluca Grossi, edito da Odoia, un libro che attraverso tutti i paesi dei Balcani ci racconta quali sono i generi musicali più usati, quali sono gli interpreti più famosi e importanti. Partiamo quindi con questa sottorubrica appunto dell'Uro dei Balcani, con partendo dalla Serbia con il folk step degli Shazala Kazu. Questo genere musicale, detto anche turbo folk, è uno negli ultimi anni è uno dei generi musicali che ha avuto maggior successo e consenso nei Balcani. È basato sul mix fra musica di discoteca e melodie con rimandi alla tradizione folk di nazioni come Serbia, Bulgaria. Infatti il fenomeno è noto anche con altri nomi tipo Chalga bulgara, Tallava albanese, Manela romena. È stato bollato fin da subito dai critici come un genere trash povero, scadente e volgare, e in effetti insomma, gran parte della produzione turbo folk lascia a desiderare in quanto a profondità, con testi pseudo pornografici tipo, cito testualmente, 7-8 te lo infilo te lo sfilo, per esempio canta Slavi Trifonov, che è uno dei capostipiti di questo genere. Ma c'è un gruppo appunto di cui vi vado a parlare che invece è caratterizzato da un approccio musicale più approfondito e qualitativamente più rilevante. Sono appunto gli Shazala Kazu e il loro folk step. È un duo di musica elettronica proveniente dal Belgrado. La band è costituita da Milan Djuric e Uros Petrovic, che fondano il gruppo nel 1998. Il primo canta, suona il clarinetto e programma i suoni. Petrovic invece si dedica al violino elettrico e alle tastiere. Hanno fatto per ora 3 album, ma sono famosi anche in Europa per via di diversi loro anche video su YouTube. Sono molto famosi. Infatti io andrò a farvi sentire la Inconformable, che risale al 2011, prodotto dall'etichetta tedesca Chusma Records, che è specializzata in Urban Bastard Music. E quindi ora andremo a sentirci questo pezzo. Nota per me curiosa: il folk step è un termine usato anche in altre situazioni, come per esempio nel caso degli Alt-J, che è un gruppo che a me piace molto, anche se poi viene detto anche in anglosassone. Vabbè, quindi gli Alt-J sono un pochino folk step. Andiamo a sentirci allora questo pezzo, Le Inconformable. Vi dico subito, appunto, come ci dicono gli stessi Shazala Kazu, che le influenze sono molteplici, da tutti i Balcani, ma non solo, si passa per tutta l'Europa, anche per l'Italia, ma non solo, ci sono anche influenze sudamericane e africane, quindi un miscuglio eccezionale. Io infatti ho scelto proprio il pezzo Le Inconformable per farvi sentire questo mix tra Balcani e Sud America, qualcosa di inusitato. Ci sentiamo settimana prossima o prima possibile. Grazie a tutti, Wombat e Wombattesse, viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat, ma soprattutto Yuri! Слушайте, ты Шазала Казу. Siempre es la misma situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón. Egoiza mi falda, pensarán que es lo peor. Tiene muy grande su boca, con ese lápiz labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no va nada con el top. Una blusa más clarita le combina ya mejor. Y las manos no le dicen con piñas al natural. Va corriendo por esmaltes en la frente y sanita. Cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo pica con estrada. Ya se quiere estar en seca y se lo pienso negar. Saca mi crema del bolso y las empieza a aplicar. Ya vamos a hacer dos patas, pues me hace regresar. Que es el único perfume que le regaló mamá. Y aprovechando la vuelta, se toca a los clientes. Se despilan a las cejas y se lavarán los dientes. Sientes la misma situación. Por eso antes de la piel quise pintar. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Allora si torna, ma ci spariamo anche subito, perché è finita la prima puntata di Fuori Polvere in versione ristretta. Finisce così. Tuco ha colpito ancora con il tour dei Balcani e le sue canzoni. Veramente chissà dove le trova questi pezzi. Quindi bene, io ripasso il cavetto al regista e ci sentiamo la settimana prossima. La settimana prossima abbiamo in programma un'intervista, insomma una puntata un po' dedicata alla rete SET, Suderofa contro turistificazione. Detto questo, Fuoco alle Polveri finisce, buon Bricobaldo e Lapo vi saluta. Bella. Wombat. Centro sociale a farvi, che state vedendo in diretta. Nardella? Nardella? Nardella? Nardella? Nardella?